Europa 24. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker rifletterà entro fine mese sul possibile portafoglio da attribuire al candidato commissario britannico Sir Julian King dopo l'audizione di questa mattina. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Margaritis Schinas, che comunque ha fatto intendere che il futuro commissario avrà un portafoglio. Tutto ciò dopo il referendum sulla Brexit. E i ministri delle finanze dell'Unione europea si riuniranno nel pomeriggio a Bruxelles per parlare delle conseguenze economiche e finanziarie della Brexit. Attenzione anche sul tema delle banche italiane. Il ministro Padoan ha detto che l'argomento non è in agenda, ma è probabile che comunque sarà al centro di colloqui informali. Indirettamente la discussione verterà anche sulla delicatissima situazione delle banche italiane, oberate da sofferenze per un totale di 360 miliardi di euro. Da settimane ormai il governo Renzi sta trattando con la Commissione europea una soluzione che sia in linea con le regole comunitarie. Nelle riunioni di oggi e domani è difficile che emerga un compromesso formale. La partita è ancora tra Roma e Bruxelles, ma entrambe le parti vorranno usare le conversazioni di oggi per valutare con mano i margini negoziali che i partner sono pronti a concedere loro in un campo, quello bancario, dove il benestare di tutti i 28, senza essere formalmente obbligatorio, è comunque raccomandato. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Operazione congiunta delle forze navali ed aeree di EUNAVFOR MED, la missione europea contro i trafficanti di esseri umani. Una nave di scafisti è stata abbordata nel canale di Sicilia in un blitz. L'operazione si è svolta sabato con la consegna alle autorità italiane di 3 presunti scafisti e il sequestro della nave, portati al sicuro 146 migranti. Finora l'azione delle navi e degli aerei dell'operazione EUNAVFOR MED, lanciata il 22 giugno 2015, ha portato all'arresto di decine di sospetti trafficanti. Sentiamo il comandante Antonello De Renzis Sonnino, portavoce di EUNAVFOR MED, al microfono di Adriana Fracchia. La missione è nata con la decisione del Consiglio d'Europa il 18 maggio del 2015, dopo il famoso disastro che è avvenuto in aprile in mare Mediterraneo, e è stata lanciata il 22 giugno 2015. Poi dallo scorso 7 ottobre è passata a una fase attiva nelle acque internazionali. L'operazione era prevista che terminasse il 27 luglio 2016, con la decisione presa in Lussemburgo lo scorso 20 giugno, in ambito comunitario, è stata estesa fino al 27 luglio 2017. Vede 24 paesi attivi nell'operazione e circa 1.100 militari dei 24 paesi partecipanti. E lo scorso 20 giugno ha avuto dei nuovi compiti aggiuntivi, il compito principale che è quello di contrastare il traffico dei criminali che sfruttano queste situazioni di flusso migranti nel Mediterraneo centrale, con due compiti che sono praticamente l'addestramento della Marina e della Guardia Costiera Libica e l'embargo delle armi in accordo alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 2292. Le regole d'ingaggio sono studiate e calibrate in modo da salvaguardare la sicurezza del nostro personale ed evitare eventuali danni collaterali. Hanno una certa riservatezza perché ovviamente non possono essere conosciute, però sono state fatte in modo opportuno per rispettare questi parametri per noi fondamentali. La Commissione europea è pronta ad aprire entro fine mese un nuovo caso contro Google per favorire nei risultati delle sue ricerche sullo shopping online il suo servizio Alphabet. È quanto rivela il Wall Street Journal citando fonti vicine al dossier, mentre sia l'esecutivo UE che il gigante di Mountain View hanno rifiutato di commentare l'informazione. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.